La mia mente impazzisce dietro mille pensieri del tempo. Cancella. A volte mille pensieri si padroniscono di me. Si padroniscono di me. Si impossessano di me. Pensieri sul mondo, pensieri sulla gente di cui non saprei dire, di cui non saprei parlare. So solo che a volte mi prende una rabbia incontrollabile, una rabbia così. Del vero distrugge il mio pensiero, annega il desiderio nel mare incalcolabile che affronta dell'umana gente, come grande Grecia che si muove, fa scuola per il mondo credendosi speciale, non sapendo di far parte di un mondo disumano, non sapendo di far parte di un mondo disumano, non sapendo di far parte di un mondo disumano. Continua ad impazzire, yeah.